È una triste abitudine quella di ritenere nell'errore chi non la pensa come noi, abitudine che ha dato avvio a estremismi e sette. Purtroppo questo atteggiamento lo si trova anche tra i figli di Dio. Nel variegato mondo del protestantesimo ci sono i valdesi, i metodisti, i calvinisti, i pentecostali, le chiese dei fratelli, tutti i movimenti tesi a onorare Dio e proclamare il Vangelo di Cristo, ma in disaccordo su alcune interpretazioni in merito alla comprensione della parola di Dio, perché se così non fosse andrebbero tutti sulla medesima strada. Perciò la cosa più saggia è quella di non puntare un dito di condanna solo perché non la si pensa tutti nello stesso modo. Anche se il giudizio ultimo spetta a Dio, è saggio prendere in esame la fede che professano i credenti di altre confessioni di fede. E questo non a scopo di condanna, ma per prendere coscienza di ciò che divide un movimento da un altro. Nell'esaminare il calvinismo ho trovato una fede che, pur nascendo da basi bibliche, non corrisponde al messaggio che da sempre predico. Questo non significa che solo io abbia ragione, ma la cosa certa è che la fede calvinista e la mia sono in netto contrasto. Un contrasto nel quale non ritroviamo due verità opposte e quindi ambedue conciliabili e accettabili, ma dove una esclude l'altra. Dato che questa conclusione non è una novità nel campo della fede né può essere ritenuta automaticamente vera solo perché viene da me formulata, mi propongo in poche righe di spiegare il motivo per cui il calvinismo professa un Vangelo diverso da quello che ho accettato e che professo. Queste riflessioni possono essere utili a tutti, ma soprattutto anche a chi ha abbracciato la fede riformata. Infatti ho esperienza di molte persone che non sono a conoscenza dei contenuti della propria fede. Così potranno in seguito prendere la decisione ragionata e consapevole se mantenere una fede riformata o lasciarla. L'importante è obbedire con un cuore onesto e in pura coscienza alla voce di Dio che parla tramite le scritture da Lui ispirate. I principi basilari di fede del calvinismo possono essere ridotti a cinque. 1. La totale corruzione dell'uomo e l'incapacità di prendere una decisione per Dio di propria iniziativa. 2. L'elezione incondizionata. 3. Il sacrificio espiatorio di Cristo limitato. 4. La grazia irresistibile. 5. La conservazione dei santi. In merito alla totale corruzione dell'uomo non vi sono dubbi, perché in tutta la scrittura è detto chiaramente che dal cuore dell'uomo nasce ogni sorta di male. Per quanto riguarda invece l'aspetto sostenuto dal calvinismo secondo il quale l'uomo sia incapace di prendere una decisione per Dio di propria iniziativa, non riesco ad armonizzarlo con le centinaia di inviti da parte di Dio di scegliere il bene e rifiutare il male. Un solo grido di dolore di Gesù mette in evidenza la capacità dell'uomo di scegliere il bene. Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi coloro che ti sono mandati. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, ma voi non avete voluto. Luca 13.3-4 conf. Isaia 30.1-5. In questo lamento troviamo per due volte il verbo volere, uno attribuito a Gesù che voleva raccogliere i suoi figli, l'altro attribuito al suo popolo che non voleva rispondere alla sua chiamata. Com'era libera la volontà di Gesù? Così era libera la volontà dei suoi ascoltatori. Diversamente, se chi lo ascoltava non era in grado di scegliere, quale addebito di colpa poteva dare Gesù ai suoi ascoltatori? Io credo profondamente che Dio non faccia nessun appello agli uomini se questo non può essere osservato. Perché la volontà di Dio è buona, perfetta e accettevole, cioè si può mettere in pratica. Se io non vedo la libertà dell'uomo negli inviti di Dio di scegliere il bene e rifiutare il male, Giosuè 24.1-5, Deuteronomio 30.1-5, devo ritenere che Dio stava mentendo e ingannando la sua creatura. L'Evangelo nel quale io ho creduto dichiara sì che l'uomo è totalmente depravato, cioè che il principio del male ha invaso ogni parte della natura umana, con il risultato che ora non ci sia alcuna parte di essa che possa agire o pensare rettamente, ma Dio è venuto incontro a questa incapacità, agendo nel cuore dell'uomo mediante. Il salmista disse, «Il mio cuore mi dice da parte tua, cercate la mia faccia, io cerco la tua faccia, o Eterno», Salmo 27.7. Il salmista si era reso conto che il suo desiderio di cercare Dio non proveniva certamente dalla sua natura corrotta, ma era un impulso proveniente da Dio. È vero che nessuno cerca Dio, Romani 3.11, ma è anche vero che lo Spirito Santo opera nell'uomo perché creda in Lui. Gesù disse in merito allo Spirito di Dio: «Quando sarà venuto, egli convincerà il mondo di peccato, perché non credono in me». Giovanni 16.8. Dunque, il compito dello Spirito Santo è quello di convincere una natura depravata e corrotta di peccato prima che questa sia stata rigenerata, affinché possa rivolgersi a Cristo. La mia fede, che scaturisce dalla Scrittura, accetta quindi la totale depravazione dell'uomo, ma altresì la totale capacità di Dio di convincerlo in merito alla propria responsabilità di peccato se, per libera scelta, non crede in Cristo. Il secondo aspetto del calvinismo concerne l'elezione incondizionata ed è la conseguenza della dottrina della completa corruzione dell'uomo. Per il calvinista Dio elegge determinate persone per la salvezza e altre alla perdizione. Questo è un messaggio totalmente diverso dal mio, perché in tutta la Scrittura non trovo una sola volta scritto che Dio abbia predestinato alcuni alla salvezza e altri alla condanna. È vero che la parola predestinazione si trova 6 volte nella Scrittura. Efesini 1.5, 11, 1 Corinzi 2.8, Romani 8.2, 9.30, Atti 4.8, e che una soltanto di queste può far pensare alla predestinazione dei salvati. Ma non vi è nulla di nuovo, perché nella Bibbia vi sono anche testi che sembrano negare la divinità di Gesù o la perdita della salvezza. Perciò una cosa è affermare che un testo sia di difficile interpretazione, un'altra è dichiarare che la Scrittura dica espressamente una certa cosa. Il testo che più di ogni altro viene preso in considerazione per dimostrare che Dio ha predestinato a salvezza alcuni si trova nella lettera agli Efesini. Benedetto sia Dio, Padre del Signor nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, allorché in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore, avendoci predestinati ad essere adottati come Suoi figli per mezzo di Gesù Cristo secondo il beneplacito della Sua volontà. 1.35. L'interpretazione di questo brano di Paolo verte sulle parole eletti e predestinati. Secondo il calvinismo, questo testo si riferisce a persone perdute che sono state scelte prima della fondazione del mondo e predestinate ad essere salvate, ma non occorre molto per rendersi conto che le persone elette alle quali si rivolge l'Apostolo Paolo sono dei credenti in Cristo. Essere eletti non è riferito sempre alla salvezza, perché anche l'Apostolo Giuda fu eletto ma andò in perdizione. Così pure l'essere predestinati non è riferito per nulla alla salvezza, perché anche Gesù fu predestinato ad una vita di sofferenza senza che questo fosse riferito alla salvezza. Atti 4.8. Forse il problema della predestinazione è stato risolto molto brillantemente da un insegnante di greco in un suo commento. Il termine italiano predestinazione viene dal latino predestinatio, usato da Gerolamo per tradurre in latino il termine greco proorizo, che non ha nessuna connotazione collegata al destino o al fatto di destinare qualcuno a un compito o a una particolare situazione. Pro vuol dire prima e orizzo, dal quale deriva l'italiano orizzonte, vuol dire delineare, segnare un confine. Il problema della predestinazione è un falso problema, introdotto da Gerolamo e portato all'estremo dai calvinisti. Romani 8.2930 andrebbe tradotto così: egli che li ha preconosciuti, li ha separati, perché fossero conformi all'immagine del suo figlio, e quelli che ha separati sono quelli che ha chiamato, che ha giustificato, che ha glorificato. Il libro del 2006, Danilo Valla, domenica 29 gennaio. Quindi, se il termine predestinazione ha il senso di separazione, allora tutto il ragionamento del calvinismo è un castello di sabbia. Una lettura attenta mette in enfasi che il testo di Efesini si riferisce semplicemente ad essere adottati come figli. Anche questa verità deve essere compresa, perché una cosa è l'essere salvati, altra è essere predestinati a diventare figli di Dio. Può venirci in aiuto ciò che Gesù disse nel Vangelo di Giovanni. Ora, nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù si alzò in piedi ed esclamò, dicendo, «Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, da dentro di lui sgorgeranno fiumi d'acqua viva». Ora egli disse questo dello Spirito, che avrebbero ricevuto coloro che avrebbero creduto in lui. Lo Spirito Santo infatti non era ancora stato dato, perché Gesù non era stato ancora glorificato. 7.3-7.39. Il commento di Giovanni è lapidario. Lo Spirito Santo non era stato ancora dato. Com'era possibile che lo Spirito Santo non fosse ancora stato dato se gli uomini dell'Antico Testamento e quelli al tempo di Gesù erano condotti dallo Spirito Santo? Che Spirito Santo dovevano ricevere i credenti in Cristo dal momento che ci è uno solo? Cosa aveva di diverso questo Spirito Santo che avrebbero ricevuto i credenti dopo la resurrezione di Gesù? Una cosa è certa, lo Spirito Santo che avrebbero ricevuto i credenti è sempre quello dell'Antico Testamento, ma la differenza era nella funzione che lo Spirito Santo avrebbe svolto. Mentre prima della resurrezione di Cristo lo Spirito Santo aveva il compito di fortificare e sostenere le persone e poteva essere tolto, Salmo 51.11, la funzione dello Spirito Santo dopo la resurrezione di Gesù è quella di fare nascere di nuovo chi pone fede in Cristo, di battezzarlo, di farlo diventare partecipe della natura divina, 2 Pietro 1.4, e del corpo di Cristo, cioè della Chiesa. Inoltre, da allora in avanti, lo Spirito Santo non sarà mai tolto. Essere partecipi, guidati, spinti o controllati dallo Spirito Santo non significa diventare automaticamente figli di Dio. Infatti, sia il pagano Neco, re d'Egitto, 2 Cronache 35.22, sia l'incredulo Caiafa, il sommo sacerdote, al tempo di Gesù, Giovanni 11.51, tanto per citare due casi, parlarono da parte di Dio e per mezzo dello Spirito Santo. Se poi pensiamo allo Spirito che agì in un'asina muta per reprimere, con voce umana, la follia del profeta Balaam, numeri 22 e 30, quello che stiamo asserendo risulta evidente. Perciò i credenti, prima della resurrezione di Cristo, non erano figli di Dio alla maniera di coloro che appartengono alla Chiesa, anche se sono ovviamente salvati. Infatti i salvati non avranno tutti la stessa relazione con Dio, non tutti avranno la stessa posizione. A testimonianza di ciò, basti pensare ai 144.000 credenti delle tribù di Israele che canteranno un cantico che nessun altro può cantare. Apocalisse 14, 1 a 3. Quindi, Dio ha predestinato che in questa epoca chi pone fede in Cristo riceva l'adozione di figlio. L'adozione e la predestinazione sono la conseguenza di aver creduto in Cristo Gesù. Questa è la fede che mi è stata rivelata nelle Scritture, una fede evidentemente diversa professata dal calvinismo. In merito poi al sacrificio espiatorio limitato, alla grazia irresistibile e alla conservazione dei santi, essi sono anelli inevitabili di una catena di ragionamento che partono dai due presupposti che abbiamo esaminato. Secondo la dottrina riformata, Gesù Cristo è morto soltanto per i peccati degli eletti. E questo per me è un Vangelo totalmente estraneo alla mia fede, perché dovrei eliminare dalla Scrittura le affermazioni nelle quali viene dichiarato esplicitamente che Gesù morì per tutti. Che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. 1 Timoteo 2.4. Ecco alcune affermazioni. Figlioletti miei, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate, e seppure qualcuno ha peccato. Abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. Egli è l'espiazione per i nostri peccati. E non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. 1 Giovanni 2.12. Queste parole, commenta John Stott, non possono essere forzate così da significare che tutti i peccati sono automaticamente perdonati per la propiziazione di Cristo, ma che un perdono universale è offerto per i peccati di tutto il mondo intero ed è goduto da coloro che ne colgono l'opportunità. Come per una sola trasgressione, la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così pure Con un solo atto di giustizia, la grazia si è estesa a tutti gli uomini in giustificazione di vita. Romani 5.18. Anche in questo caso la parola tutti è riferita in senso universale, perché se la condanna è estesa a tutti, cioè ad ogni uomo, per coerenza la grazia è estesa ad ogni uomo. Poiché Dio ha rinchiuso tutti nella disubbidienza, per far misericordia a tutti. Romani 11.32. Anche in questo caso è impossibile applicare il termine tutti solo ai predestinati, perché tutti gli uomini, ma proprio tutti, sono nella disubbidienza, perciò tutti questi, e non solo gli eletti, hanno ottenuto misericordia. Paolo lo dice chiaramente. Ora tutte le cose sono da Dio, che ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo, e ha dato a noi il ministero della riconciliazione, poiché Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, ed ha posto in noi la parola della riconciliazione. 2 Corinzi 5.18-19. Il Vangelo che predico è che Dio ha perdonato a tutti gli uomini i loro peccati, non li imputa più, perciò a loro non resta che accettare il perdono offerto. Perciò non vedo nella Scrittura una totale corruzione dell'uomo, e conseguentemente a questa l'incapacità di prendere una decisione per Dio di propria iniziativa. Non vedo l'elezione incondizionata e soprattutto non vedo neppure il sacrificio espiatorio limitato. Applicare il termine tutti ai soli salvati è un ragionamento filosofico al quale non posso aderire. In merito alla grazia irresistibile, e cioè che gli eletti vengono attirati a Dio in modo irresistibile, tramite la fede che Dio dona a loro, non riesco a, secondo la dottrina calvinista, quando lo Spirito Santo chiama un uomo o una donna tramite la sua grazia, questa chiamata non può essere rifiutata, eppure nella Scrittura leggo più volte che gli uomini perduti hanno resistito e contristato la persona dello Spirito Santo. Io ricorderò le benignità dell'Eterno, le lodi dell'Eterno per tutto ciò che l'Eterno ci ha largito e la grande bontà usata alla casa di Israele, concessa loro secondo le sue compassioni e secondo la sua grande benevolenza. Egli infatti aveva detto: essi sono veramente il mio popolo, figli che non agiranno falsamente. Così divenne il loro Salvatore. In ogni loro afflizione egli fu afflitto, e l'angelo della sua presenza li salvò. Nel suo amore e nella sua compassione li redense, li sollevò e li portò tutti i giorni del passato. Ma essi si ribellarono e contristarono il suo Santo Spirito, perciò egli divenne loro nemico e combatté contro di loro. Isaia 63.7-10. Non solo, ma anche gli eletti, secondo l'Apostolo Paolo, possono contristare la persona dello Spirito Santo. E non contristate lo Spirito Santo di Dio col quale siete stati sigillati per il giorno della redenzione. Efesini 4.30. Se nei confronti della persona dello Spirito Santo è possibile resisterle, Atti 7.51, contristarla, Efesini 4.5, Isaia 63.10, tentarla, Atti 5.9, spegnerla, 1 Tessalonicesi 5.19, mentirle, Atti 5.3, oltraggiarla, Ebrei 10.29, e bestemmiarla, Matteo mezzogiorno e 31, non vedo perché si debba dichiarare che la sua chiamata alla conversione sia irresistibile. Non riesco a trovare nella Scrittura un solo brano che indichi che gli eletti non possono rifiutare l'Evangelo di Dio, mentre gli altri, cioè coloro che saranno perduti, sono costretti a farlo perché impotenti. Tutt'altro, nella lettera ai Romani, Paolo mette in evidenza la responsabilità dell'uomo. Infatti le qualità invisibili di Dio, la sua eterna potenza e divinità, essendo evidenti per mezzo delle sue opere fin dalla creazione del mondo, si vedono chiaramente. Affinché siano inescusabili, poiché pur avendo conosciuto Dio non l'hanno però glorificato né l'hanno ringraziato come Dio, anzi sono divenuti insensati nei loro ragionamenti, e il loro cuore, senza intendimento, si è ottenebrato. Romani 1.2021. Secondo Paolo, coloro che non conoscono la legge di Dio sono senza scuse, cioè sono responsabili se non danno gloria a Dio, e questo significa che potevano ringraziarlo e glorificarlo. Come possono essere inescusabili dei perduti se non sono in grado di ringraziare Dio? L'irresistibilità della grazia e l'irresistibilità della vocazione sono aspetti per me del tutto estranei. In merito poi alla perseveranza dei credenti o la conservazione dei santi è l'ultimo anello del ragionamento della dottrina calvinista. Secondo la fede riformata, Dio stesso determina e garantisce la salvezza e l'eterna sicurezza degli eletti. In definitiva, come l'uomo non prende alcuna iniziativa per la propria redenzione, così non contribuisce in alcun modo alla perseveranza nella fede. Essa è soltanto responsabilità di Dio e procede dalla sua azione sovrana. Anche questo aspetto del calvinismo è per me difficile da trovare nella parola di Dio. Da un lato è lodevole mettere enfasi sulla sovranità di Dio, dottrina questa trascurata da molti, ma che enfatizzata all'estremo porta a dimenticare il ruolo umano. L'Apostolo Paolo lo mette in evidenza nella seconda lettera scritta a Timoteo. Per questo motivo io soffro anche queste cose, ma non me ne vergogno, perché so in chi ho creduto e sono persuaso che egli è capace di custodire il mio deposito fino a quel giorno. Ritieni il modello delle sane parole che hai udito da me nella fede e nell'amore che sono in Cristo Gesù. Custodisci il buon deposito che ti è stato affidato mediante lo Spirito Santo che abita in noi. 2 Timoteo 1.1-2.14. Paolo è grato che il suo Dio è in grado di custodire le sue ricchezze spirituali, ma ordina pure a Timoteo di custodire i beni spirituali. Se Dio fa la sua parte, noi dobbiamo fare la nostra. In effetti, prima di morire, Paolo disse: «Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho serbato la fede». 2 Timoteo 4.7. Paolo fa notare che egli ha serbato la fede, e questo ha comportato da parte sua un impegno. Certo, un figlio di Dio è salvato per sempre, ha la sicurezza della salvezza, ma può perdere la fede, il frutto delle cose compiute, 2 Giovanni 1.8, e le benedizioni spirituali al punto di essere salvato come attraverso il fuoco, 1 Corinzi 3.15. In definitiva, le dottrine della totale corruzione dell'uomo, dell'elezione incondizionata, del sacrificio espiatorio limitato, della grazia irresistibile e della conservazione dei santi non sono solo punti di vista, ma si tratta di una lettura del testo biblico che è completamente contraria alla mia fede. Per il calvinista sostenere che per essere salvati dobbiamo credere è un'assurdità, mentre io insegno che per essere salvati occorre credere. Per obiettività non voglio pronunciarmi in merito al fatto se io abbia ragione o torto, ma non posso negare la diversità concreta fra il Vangelo del calvinismo e il mio. Mentre per il calvinista la base della certezza della salvezza risposa sull'elezione e sui frutti spirituali, cioè sulla perseveranza, io baso la mia sicurezza futura sulle promesse di Dio. E su questo Vangelo che Dio per lo Spirito Santo ha rivelato a me, e non solo a me, io sto saldo. Febbraio 2006. Ellero.